Le piacevoli notti. Libro secondo di Giovan Francesco Straparola. Quarta favola dell'undicesima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. Isabella, in tal maniera, alla sua favola diede principio. Favola quarta. Un buffone, con una burla, inganna un gentiluomo. Egli per questo è messo in prigione e con un'altra burla è liberato dallo carcere. È un detto comunemente comendato che i buffoni molte volte piacciono, ma non sempre. Onde, essendomi tocco il quarto luogo di favoleggiare in questa sera, mi è sovvenuta una novella che fece un buffone ad un gentiluomo, il quale, ancor che della burla si vendicasse, non però cessò di fargliele un'altra, per la quale dalla prigione fu liberato. Vicenza, come è noto a tutti voi, è città nobile, ricca, pomposa e dotata di pellegrini ingegni. Quivi abitava Ettore, nato dell'antica e nobile famiglia di Dreseni, il quale, sopra gli altri, per la gentilezza del parlar suo e per la grandezza dell'animo, diede e lasciò il nome di nobiltà a posteri suoi. Tante erano le doti dell'anima e del corpo di questo gentiluomo che egli meritò che la sua immagine, con maraviglioso artificio, posta fusse e affissa nelle strade pubbliche, nelle piazze, nei templi e nei teatri, e con grandissime lodi essere innalzato fino alle stelle. Tanta era la liberalità di costui che parea veramente niuna cosa degna di memoria ritrovarsi che a lui mancasse. Grande era la pazienza sua in udire, la gravità nel rispondere, la fortezza nelle cose averse, la magnificenza nei suoi fatti, la giustizia e la misericordia nel condannare, intanto che nel vero dir si può il magnanimo Ettore tenere il principato tra la famiglia di Dreseni. Avvenne un dì che un gentiluomo aveva mandato a donare a questo eccellente signore un quarto di vitello e letto. Il servo che portava la carne, subito che giunse alla casa di questo magnifico signore, trovò uno avveduto ingannatore, il quale, visto il servo che aveva la carne di vitello, affrettatosi di andare a lui, gli addimandò chi mandava quella carne, ed inteso chi fosse, disse che dovesse aspettare fino a che avvisava il patrone. E ritornato in casa, di come è costume di buffoni, cominciò a giocolare, dimorandosi alquanto per ingannare il servo e il patrone, e cosa alcuna non parlò del presente. Indi venne alla porta, rendendo grazie per nome del patrone a chi mandato l'aveva, con parole convenevoli a tal proposito, e comandolli che andasse esso con lui, perché il signor Ettore mandava quel presente ad un gentiluomo, e così bellamente condusse il servo in casa sua. E trovatovi il fratello lo diede a lui, con animo di torre il vitello per sé e ingannare il suo signore. Il che fatto, l'uno e l'altro tornò a casa, e il servo rendé le dovute grazie al patron suo, per nome del signor Ettore. Poi, ritrovandosi un giorno per avventura il gentiluomo che aveva mandato il quarto di vitello col detto signor Ettore, gli addimandò, sì come si suol fare, se il vitello era stato buono e grasso. Il signor Ettore, non sapendo di questa cosa, lo ricercò di che vitello parlasse, egli dicendo di non aver avuto né quarto né terzo. Il donatore che lo mandò, chiamato il servo, gli disse a cui l'avesse consegnato. Il servo diede i contrasegni dell'uomo dicendo: colui che tolse la carne per nome del patrone era un uomo grasso di persona, allegro, con la grande panza, e parlava un poco barbosso, e portòla a un altro gentiluomo. Subito il signor Ettore lo conobbe a contrasegni, perciò che era solito far similberte, e chiamatolo a sé, trovò come era passata la cosa. E poi che molto l'ebbe ripreso, lo fece volare in prigione, e porgli i ceppi a piedi, isdegnato tale obbrobrio essergli fatto per un giocolatore, il qual non temette di temeriamente ingannarlo. Non però stette in prigione tutto il giorno, perché nel palazzo giudiciario, dove era carcerato il parasito, vi era per sorte un sbirro nominato Vitello, qual chiamò il carcerato, o per aggiungere male a male, o per trovare rimedio alla sua malattia, e fece una pistola al signor Ettore dicendo: signor mio, confidandomi della liberalità di vostra signoria, accettai il quarto di vitello a quella mandato in dono. Ma ecco che per un quarto le mando uno vitello integro, e quella mi abbia per raccomandato. E mandò il sbirro con la pistola, che per nome suo facesse la sicurtà. Il sbirro subitamente andò al signor Ettore e consignolli la pistola, la qual letta, il signor subito comandò a servi suoi che togliessero il vitello che aveva mandato il buffone e che l'ammazzassero. Il sbirro, che aveva udito che i servi lo dovessero prendere e uccidere, disnudò la spada che al lato aveva, e quella nuda tenendo in mano e ravoltosi il mantello attorno al braccio, cominciò a gridar con gran voce: «È scritto nella gran corte regnar grande inganno! Il vitello non torrete voi se non morto e smembrato! State indietro, servi, se non sarete uccisi!» I circostanti rimasero stupiti per la novità della cosa e scoppiarono a ridere, onde il prigioniere per tal gioco fu liberato. E però meritamente diceva quel famoso filosofo Diogene che piuttosto ischifare debbiamo l'invidia degli amici che le insidie dei nemici, perché quelle sono un male aperto e questa è nascosa, ma è molto più potente l'inganno che non si teme. Fine della storia. Isabella, poiché impose fine alla sua breve favola non poco laudata dall'orrevole compagnia, mise mano alle sue armi ed un enimma diede fuori così dicendo: «Due siamo in nome e solo una in presenza, fatte con arte e fornite con guai. Fra donne conversiam senza vertenza, ma siam maggior fra genti rozze assai, ed infiniti non possono far senza nostro valor, né si dogliamo mai, e consumate per l'altrui lavoro, guardate, non siam più d'alcun di loro». Questo enimma altro non dinota che le forfice, con le quali le donne tagliano le fila, ma fra gente minuta come tra sarti, cimadori, barbieri e fabbri, sono assai maggiori di quelle che adoperano le donne. Non dispiacque il bel enimma agli auditori, ma sommamente il comenderono. Fine della quarta favola dell'undicesima notte. Registrazione di Marzia Marianera.